partiti. Del suo bel cor senti. I miei sospiri t'appartene per poco a suoi. I palpiti sarti, per fondere i miei o tuoi sospiri, cielo ti può Ha ha ha!